Friuli nel mondo, 122esima trasmissione dedicata agli emigrati, canti natalizi del Friuli. Nell'approssimarsi delle festività natalizie, vogliamo offrirvi, cari amici in ascolto, alcuni caratteristici canti popolari friulani dedicati alla Natività. Canti antichi e recenti che trasporteranno il vostro pensiero nel clima sereno del Natale di casa vostra. Ascoltate queste tre laudi di Sauris del XIV secolo. Sono cantate in dialetto sauriano. A proposito di queste laudi, il professor Bertini, in un suo recente studio, così si esprime. Per la musicologia, la Valle della Butt, la Carnia ed il Friuli ci propongono tesi, temi e problemi del massimo valore ed interesse che non si possono risolvere che in chiave rigidamente scientifica e che porteranno contributi risolutivi non solo alla identificazione definitiva della musicologia aquileiese, ma che si dimostreranno anche strumento indispensabile alla esatta definizione della civiltà originale carnica. La traduzione italiana così dice: «Sii salutato, piccolo Gesù, in questa culla. Senza di te non sono contento, o cordiale consolatore. A te cantano tutti gli angeli, perché a te solo viene la lode. O Gesù dolce come il miele, o bellissimo Gesù». Lasciaci fare la ninna nanna al bambino. Questo cuore fa ninna nanna presso la culla. Lasciaci lo spirito rallegrare e benedire il bambino, o dolce Gesù. Whoa. un fanciullo è nato in Betlemme, perciò Gerusalemme gode. Questi giace nel presepio e regna senza fine. Il bue e l'asino conobbero in lui fanciullo, il loro signore. Ed eccovi ora questa antica pastorale cantata dalla soprano Bianca del Conte.